che però sembrano fondersi per i tratti somatici con quella che è la popolazione, diciamo così, che ha ancora la prevalenza numerica. C'è questa differenza nell'esperienza tra chi è immigrato e si vede e tra chi è, rimane immigrato, ma è molto più difficile coglierlo finché non ci si parla e non ci si racconta a vicenda. Torneremo tra pochissimo con tanti altri episodi e soprattutto tante osservazioni. Roma Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E allora rieccoci con il nostro neurologo Piero Barbanti, a cui stiamo chiedendo: ma essere mediocri dal punto di vista del cervello comporta una sofferenza? Nessuno di noi si farebbe operare da un chirurgo con valore medio o andrebbe in una vacanza in un posto di bellezza medio. Quello che viene fuori dalla civiltà che stiamo vivendo nei popoli occidentali è il primato della procedura, cioè l'apparato, la procedura, l'organizzazione diventano il fine, cioè è la morte, moriremo di flowchart. Ed è questo sistema che ha evidentemente un suo valore civile per gestire, che diventa il fine. Prima tornerei un attimo alla mediocrazia, al nostro filosofo canadese, perché è molto interessante anche la modalità con cui si perpetua la richiesta di essere mediocri. Università, istituzioni, organizzazioni preferiscono l'essere umano mediocre, ma chiaramente non lo possono esplicitare. Come lo si capisce? Mediocrity is often a way to seek for what. La mediocrazia indica ciò che le istituzioni che hanno potere sulle nostre vite vogliono che noi realizziamo. La mediocrità è poi quella situazione in cui le persone cercano di capire cosa le autorità vogliono che le persone pensino e facciano. L'idea è di assimilare il concetto e le nozioni del potere così da rimanere attrattivi sul mercato. E dunque, come ha sentito, dottore, non c'è una richiesta esplicita. No, è gravissimo intanto che venga adottato nell'ambito scolastico. Quando si pensa che nei licei classici i compiti di filosofia e di storia sono fatti per iscritto, vuol dire sostanzialmente cercare un valore medio, cioè mediocre, dello studente, perché c'è una parte, per fortuna, talmente tanto imperscrutabile e non catalogabile della virtù intellettiva che non riesce a venire fuori con un quiz a scelta multipla o assolutamente anche a risposte aperte. Ma allora qual è l'opposto di mediocrazia? Ci stiamo avvicinando. Quando ho chiesto ad Alendeno qual è l'opposto di mediocrazia, ma aspettavo quasi una risposta come meritocrazia, ma non è stato così. Sentiamo. La differenza con mediocrità è il pensiero critico. Sarebbe a dire non un modo di assimilare le nozioni, ma un modo di considerare queste cose come un oggetto del pensiero critico. Il rischio è quello, se posso usare una frase forte, con la mediocrazia, di creare un pensiero modificato OGM, cioè un cervello che iperproduca, ma lei ha il mais OGM che non so se ho mangiato, non ha sapore di niente. Cioè se noi cerchiamo di ottimalizzare con gli apparati, le procedure, con tutto questo, il nostro rendimento, noi creiamo un indaffaramento inoperoso. Cioè un pensiero, un nostro modo di agire, un nostro modo di... Aspetti, scusi, me la voglio segnare. Indaffaramento, come l'ha definito? Indaffaramento inoperoso. Cioè non sempre quelli che appaiono pieni di impegni, di impegni, in realtà stanno operando in maniera creativa, lei dice, o efficace. Certamente, ma questo lo dimostra il fatto che viviamo in una grave crisi di valori. Se fosse qualcosa di produttivo avremmo probabilmente slanci molto maggiori. È una triste foto anche dell'Europa dei nostri giorni. Ma un ultimo sassolino,

e non vergognatevene, perché l'amore è arte e voi i capolavori. Un bel regalo dunque era Fate l'amore di Alda Merini. Noi ritorniamo insieme sabato alle 8 del mattino da Irene Zerbini. L'augurio di un'ottima settimana.